Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccoci qua, questa è Nervature, io sono Addu, oggi lunedì 27 ottobre 2025, diciamolo, perché non si sa mai che magari qualcuno se ne si confonde, tra cui me, per esempio. Quindi, come sempre, appunto, lunedì all'incirca le 19 vi accompagno con Nervature, la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, botanica e chissà anche cos'altro. Oggi che cosa vi propongo? Oggi finiamo con l'audiolibro, quindi questa è l'ultima puntata, finalmente siamo arrivate in fondo e finalmente sapete come va a finire questa storia. E quale storia? Quella di Memorie di un vecchio giardiniere, questo è il titolo del libro, di Reginald Arkell. Quindi oggi leggiamo appunto gli ultimi tre capitoli. E che dire, mettiamo subito un pezzo musicale e poi iniziamo. I ain't here to fight, baby. Just listen. I ain't slamming no door. No need to shout. I gave you all I had. But I'm all out. I ain't mad. But I sure can't stay. Just so you know, I'm just walking away. You played your part with a sweet disguise. Told me half the truth and sold it like a prize. But I ain't here to beg. No, not today. You see, I'm not running. I'm just walking away. Something to say, but not this time. I'm just walking away. This ain't revenge, this is peace. I'm letting go, that's my release. I'm just walking away. Il vecchio signor Billiter, dello studio legale e notarile Billiter, Billiter e Billiter, aveva un certo debole per i clienti anziani della sua generazione. Occuparsi dei loro affari lo faceva sentire ancora giovane. Inoltre offrivano del buon vino, non come quei clienti sbarbatelli che offrivano bibite nauseanti prima del pasto e anche dopo il pasto e niente in mezzo. Era come mangiare le estremità di uno strudel e buttare via la parte centrale col ripieno. Ciò che fa per me è un uomo che sappia cosa bere con quello che mangia e da che parte far girare la bottiglia del porto, diceva il vecchio signor Billiter. Di quando in quando, di solito in primavera, il vecchio signor Billiter se ne usciva trotterellando dal suo Sancta Sanctorum per andare nell'ufficio, molto più vasto e imponente, del figlio, il signor Harold, dove cominciava a scartabellare fra le sue carte. Conoscendo i segnali, il signor Harold chiamava il proprio figlio, il signor George, il quale premeva un cicalino per chiamare a sua volta un vecchissimo impiegato. «Griffin!» gli diceva. «Il nostro vecchietto si è di nuovo scatenato. Cosa bolle in pentola?» Griffin rispondeva che gli affari del vecchio Sir Ralph Honeycomb erano un po' ingarbugliati. Il socio anziano avrebbe passato liete giornate a studiare gli incartamenti e i fascicoli di documenti della famosa tribù Honeycomb. Quella prassi, che potrebbe apparire disinvolta per uno studio notarile tra i più importanti della città, aveva del buono. Il vecchio signor Billiter possedeva una memoria prodigiosa e nei casi o nelle cantine che lo interessavano non aveva bisogno di consultare gli altri soci sulla pratica che prendeva in mano. Ci si tuffava dentro sicuro come un cane in mare e riportava sempre a riva il ciottolo giusto. E così il signor Harold, il signor George e Griffin gli avevano consegnato i documenti relativi alla vendita della proprietà a Charteris, con un sospiro di sollievo e senza apprensioni di sorta. Il vecchio signor Billiter aveva passato alcuni mesi piacevolissimi a studiare quei documenti polverosi che riguardavano una famiglia inglese residente nell'Inghilterra centrale. Era come scorrere un pacchetto di vecchie missive d'amore. Benché legate con il nastrino rosso della burocrazia e non proprio profumate di lavanda. Ricordava benissimo Charlotte Charteris, una giovane affascinante che, rimasta vedova in circostanze tragiche, si era dimostrata una donna in gamba e si era messa di piglio a dirigere la proprietà. Gli era sempre piaciuta, anzi c'era stato un tempo quando si recava di frequente alla villa, che era sembrato che loro due... A quel punto il vecchio signor Billiter mise da parte i ricordi più sentimentali e si concentrò sulla faccenda che aveva per le mani. Per settimane aveva raccolto informazioni sulla situazione finanziaria di possibili acquirenti. Aveva polemizzato con studi legali concorrenti e infine aveva concesso la propria approvazione all'offerta presentata dal colonnello Whitford, un ottimo giovane conoscitore di cavalli, insignito della medaglia al valor militare e presentazione ancora più importante, socio del suo circolo. Il vecchio signor Billiter aveva studiato con la massima attenzione tutti gli aspetti della faccenda. Conosceva a memoria ogni particolare e aveva consegnato i documenti per l'approvazione definitiva con animo sereno, contento che Charlotte Charteris, povera cara, non fosse stata spennata da uno di quei giovani furbastri che credono di sapere tutto, ma che, grazie a Dio, non sapevano la metà di quello che credevano di sapere. Nell'euforia della soddisfazione per il lavoro fatto, permeata dal roseo ricordo di un'antica devozione, il vecchio signor Billiter decide di spingersi fino alla villa per definire eventuali piccoli particolari ancora in sospeso. Ce l'avrebbe fatta ad arrivare per mezzogiorno, mangiare qualcosa e ritornare in città per cena. Se Charlotte gli avesse chiesto di fermarsi a dormire, tanto meglio. Avrebbero parlato dei vecchi tempi e forse ci sarebbe stato ancora qualche goccio di quel cognac invecchiato. Quando il vecchio signor Billiter sentiva nelle, eh, nel, nelle narici il profumo del cognac invecchiato, niente al mondo poteva fermarlo. Il mattino seguente, alle 11, si trova sul marciapiede della ferrovia a Swancombe Junction per salire sul vecchio accelerato che ricordava tanto bene. Alle 11 e tre quarti giungeva a destinazione. Alle 12 era fermo sul terrazzo della villa. Il luogo era deserto. Era la prima volta nella vita che il vecchio signor Billiter dimenticava qualcosa, ovvero di aver dato disposizione, tempo prima, a una casa d'aste locale di vendere la mobilia e tutti gli oggetti antichi e moderni. Il vecchio signor Billiter si sedette sul basso muretto e fece scorrere lo sguardo sulla scena desolata. Era un po' stanco del lungo viaggio. Aveva appetito ed era perplesso come un cane da caccia che abbia perso la traccia. Il bel pranzetto intimo con Charlotte era un miraggio in un deserto arido. La bottiglia di cognac invecchiato, un sogno svanito. Guardando in basso il giardino trascurato, vide avvicinarsi una figura solitaria. Il vecchio gramigna stava tornando a casa per pranzo dopo aver lottato per metà della mattina con una rosa rampicante ribelle. Il signor Billiter lo salutò a gran voce e il vecchio, di disuso a quegli atti di cortesia, sembrò incerto se rispondere o meno. Poi decise di avvicinarsi allo sconosciuto. «Come vi chiamate?» gli chiese il signor Billiter. «Pinnegar», rispose il vecchio. Il signor Billiter aveva una memoria formidabile e quel nome la mise subito in moto, a ritmo frenetico. «Bontà del cielo!» esclamò. Voi siete quello che ha portato le fragole precoci alla villa l'ultima volta che sono venuto qui. Quanto tempo fa è stato? 40 anni come minimo, fu la risposta. Il vecchio signor Billiter avrebbe voluto fischiare, ma chissà perché non ci riusciva più. Tanto, disse come fra sé. Già, deve essere così. E voi cosa avete fatto in tutti questi anni? Mi sono arrabattato qua e là, rispose il vecchio gramigna. Arrabattato qua e là e a quanto pare ho sciupato tutto. Voi sareste il giovane notaio che veniva da Londra? Eravamo tutti giovani una volta, replicò il signor Billiter, passando tra le dita fra i radi capelli grigi che gli rimanevano sul capo. Ora mi ricordo di voi. La signora Charteris mi ha scritto al vostro riguardo. In bene, spero, chiese il vecchio. A memoria, disse lentamente il notaio, mi pare di ricordare che sottintendesse che con una sola eccezione, il sottoscritto, voi siate stato l'unico amico che abbia avuto al mondo. Troppo buona, era una vera signora, era un piacere lavorare per lei e ne sento tremendamente la mancanza. Una persona affascinante. Meditava Billiter. Una vera signora, ripeté Pinnegar, e molto opportunamente non ne parlarono più. Il signor Billiter non aveva mangiato nulla dopo la prima colazione, che aveva fatto anche molto presto, e cominciava ad avere fame. Anzi, avrebbe mangiato qualunque cosa, purché prestissimo. Dove avrebbe potuto trovare un buon albergo e un taxi che ve lo conducesse? Gli chiese. Signor Pinnegar non seppe trattenersi da ridere. L'albergo più vicino, a parte il piccolo pub della stazione, distava 14 chilometri e da quelle parti non esistevano taxi. Il signor Billiter, che era schiavo dei piaceri della vita, ne fu sgomento e lo diede a vedere. «E voi? Voi dove mangiate?» chiese. «Giù al cottage». «Potreste offrirmi uno spuntino giusto per tenermi su?» «Ho solo del pane e formaggio e forse una cipolla». «Non potrei chiedere di meglio», dichiarò Billiter. «Allora vi invito», disse il signor Pinnegar. Nel cottage c'era formaggio in abbondanza, cipolle quante se ne volevano e una bottiglia di birra per innaffiare il tutto. Il signor Billiter era sincero quando disse che era il pasto migliore che avesse fatto da anni. «Che bel posticino avete», disse guardandosi attorno nella stanza accogliente. «Non vi manca nulla, eh?» «Sto per andarmene», disse il vecchio. «Per andarvene? Perché non è abbastanza confortevole per una persona anziana come voi?» È una casa concessa in affitto a un dipendente, rispose il signor Pinniver. Serve per il nuovo giardiniere. Ma vi sarete opposto? Speravo di finire qui i miei giorni, ma non posso andare contro le leggi sulla proprietà, spiegò il signor Pinniger con un sorriso amaro. Leggi sulla proprietà, un accidenti, esplose il notaio. Sentite, il cottage è vostro. Casa, arredi e botte per l'acqua piovana. La signora Charteris ha venduto la casa con l'accordo formale che voi rimaneste dove siete. C'è una clausola speciale che ve ne concede l'usufrutto a vita. L'ho redatta di mia mano. Cosa diavolo crede di fare, Whitford? Il colonnello non è mai venuto qui, è ancora in Germania, merita tutto il rispetto. Ma allora chi vi ha raccontato questa frottola della casa concessa in affitto a un dipendente e sciocchezze del genere? Ci sarà un agente, immagino. Eh già, altro che se c'è un agente, rispose il vecchio. Non ha letto le condizioni di vendita? Il vecchio Gramigni non lo sapeva, ma volendo inferire sul giovanotto, accennò che le cose erano state fatte un po' in fretta e la gente doveva occuparsi di tante cose. Queste sono storie, accidenti, esclamò Billiter. Non si gioca a rimbalzello con la legge. Dov'è questo burocrate borioso? Voglio fare una chiacchieratina con lui prima di riprendere il treno. Cose fatte in fretta, occuparsi di tante cose, col piffero, povero me. Sentite, Finnegar, eccovi il mio biglietto da visita. Se dovessero causarvi qualche altro fastidio, scrivetemi a questo indirizzo. E adesso devo andare. Se il signor Billiter avesse sofferto di ipertensione, l'episodio gli sarebbe stato fatale. La gente avrebbe avuto il fatto suo. Quando il socio anziano dello studio legale notarile di Billiter, Billiter e Billiter uscì infuriato dal cottage diretto all'ufficio amministrazione, il vecchio Gamigna provò un po' di compassione per il giovanotto. Non trapelò mai niente di ciò che avvenne. Il notaio fu accompagnato in auto alla stazione e fu un giovanotto con la coda fra le gambe quello che si presentò al cottage poco dopo la chiusura dell'ufficio. Nell'agitazione del momento, il signor Billiter aveva dimenticato di informarlo del breve colloquio avuto con vecchio Gramigna e pertanto la gente era in condizioni di leggero svantaggio quando cominciò a fornire la propria versione dei fatti. A quanto pareva il notaio si era sbagliato. La proprietà era stata venduta integralmente al colonnello Whitford, ma nel contratto esisteva una clausola che disponeva che il signor Herbert Pinnegar potesse continuare a occupare il suo cottage come usufruttuario a vita, ovvero fino al momento in cui avesse scelto di rimanerci. Non si era mai sentito una sciocchezza del genere. Aveva avuto l'impressione, disse Pinnegar, che qualcuno avesse sbagliato in qualche punto. Comunque, tutto bene quel che finisce bene. Così adesso sappiamo come stanno le cose. È ovvio, riprese la gente, che a causa di questa stupida svista dobbiamo esaminare il problema da un'altra angolazione. Quale problema? Chiese Pinnegar. La faccenda del cottage, rispose l'altro. Dobbiamo cercare di arrivare a un accordo accettabile per entrambi. È chiaro che il cottage deve essere nostro, non possiamo certo sloggiare un capo giardiniere e mandarlo a vivere chissà dove. Non lo accetterebbe e ci pianterebbe in asso, e non mi sentirei certo di biasimarlo. Inoltre gli avevo assicurato che gli avremmo assegnato questo cottage. L'ha già visto e l'accordo era già concluso. Ora, signor Pinnegar, lei che è una persona ragionevole. Ma io non sono per niente ragionevole, replicò Pinnegar. Ecco il guaio. Io sono testardo. Se non ci credete, chiedete alla signora Charles o a uno dei suoi ragazzi che avete fatto lavorare in giardino. Vi diranno che sono un vecchio irascibile. La gente accolse la battuta con un sorrisetto ispido. Capisco, Vinegar, ma sono certo che non vorrete fissarvi sulla vostra posizione di vantaggio puramente tecnica. È un'assurdità. Pensate a come vi trovereste qui, vivendo in mezzo alla proprietà. Sapendo che tutti, se ho capito bene, mi state dicendo che mi rendereste la vita maledettamente difficile, ridacchiò il vecchio Gramigna. La gente respinse con un gesto la bassa insinuazione. Penso al colonnello Whitford, sapete bene come sono fatti questi grandi proprietari terrieri. Vogliono essere padroni delle loro terre, non vogliono estranei tra i piedi e non si può dare loro torto. In fin dei conti, ognuno tiene la propria casa. Già. Proprio quello che stavo pensando anch'io, disse Pinnegar. La gente tentò un approccio diverso. Signor Pinnegar, disse, sarò franco con voi. Mi trovo in una posizione imbarazzante. Lessi le condizioni di vendita in un momento in cui andavo un po' di fretta e avevo molte preoccupazioni, tanto che mi è sfuggita la clausola che vi assegna l'usufrutto a vita del cottage. Ah, mi chiedevo quando l'avreste detto e ora vi stimo di più per aver ammesso di aver sbagliato. E perciò, l'amministratore si sporse ansioso in avanti, e perciò, ripeté il signor Pinnegar, vi giro un consiglio che mi è stato dato quando io ero giovane. Il signore che veniva da queste parti a pescare mi disse, Pinnegar, tutti i contratti nascondono un inghippo. Di solito è stampato nella parte a caratteri piccolissimi. Se non lo trovate lì, tenete il foglio in controluce, probabilmente è nella filigrana. Il povero agente fece un altro tentativo. Signor Pinnegar, disse, faccio appello al vostro buon cuore. Signor agente, replicò il vecchio, non molto tempo fa mi avete detto che non va bene mescolare gli affari con il sentimento. Adesso dite il contrario. Siete una banderuola, e una banderuola serve solo a indicare da che parte soffia il vento. Benissimo, disse l'altro. A questo punto non ho altro da dire. Scoprirete che in tribunale questa clausola assurda non sarà mai e poi mai ritenuta valida. Voi non siete più un dipendente che lavora sui terreni del proprietario. Mi rivolgerò alla commissione agricola del Ministero della Guerra. Riceverete una comunicazione dai nostri legali. In tal caso, replicò il signor Pinnegar, sarà bene che vi dia il nome dei miei legali. Tutti quanti. Vediamo, dove ho messo il biglietto da visita? Indossati gli occhiali con la montatura metallica, lesse ad alta voce. Studio legale e notarile, Billiter, Billiter e Billiter, Leadenhall Street, Londra. You said goodbye like it meant you cared. Like walking away, still left something there. But love don't live in what won't stay. And hearts don't hold what walks away. You called it mercy, I called it done. A soft kind of ending that still weighed a ton. But if this was love, then it came undone. 'Cause leaving don't look like anyone won. Goodbye and loving, no matter how soft you speak, you can't hold someone when you turn your cheek. You say you care, but I know one thing, goodbye and loving, goodbye is Lucille tried to play us through, but even her strings knew what was true. She don't cry for just any pain, only for love that won't come again. You left me standing with open hands, said you'll understand someday. I understand. Goodbye ain't loving, not even close. It ain't gentle, it it just goes. So take your silence, take your rain, but don't call it love. Goodbye. Dopo il colloquio, il vecchio Gramigna non ritornò in giardino. Si sedette alla finestra del cottage a guardare cosa succedeva fuori, chiedendosi come avrebbe riempito le giornate che ancora gli rimanevano. Se fossero state tutte così, sperava di non averne molte davanti a sé. Per prima cosa rimandò allo studio legale la raccomandata con la paga settimanale. Il signor Billiter rispose personalmente che quella era una specie di pensione che la signora Charteris aveva disposto gli fosse consegnata per tutta la vita. Così non avrebbe fatto la fame. Beh, era indubbiamente una bella comodità, ma l'idea di prendere dei soldi che non si era guadagnato col sudore lo disturbava non poco. Non andava praticamente mai al villaggio. Aveva la sensazione di avere perso, insieme al suo incarico, anche tutto ciò che esso comportava. Se non era più il signor Pinnegar, capo giardiniere della villa, che cos'era? Un vecchio come tanti altri, buono soltanto a starsene seduto su un gradino, al sole, a parlare del tempo. Si sentiva tremendamente solo ed escluso da tutto. A volte si chiedeva perché non si fosse sposato. Gli altri vecchi avevano una moglie, più giovane di loro, che sfaccendava avanti e indietro per la casa a lavare i pavimenti e cucinare e che si credeva, se si credeva a quanto dicevano quei vecchi, a far fare una vita da cani ai mariti. Forse era vero o forse no, ma quando si era vecchi quanto lui, una moglie pessima è meglio di nessuna moglie. Inoltre, se si fosse sposato, ci sarebbero stati dei figli, dei ragazzi in gamba che la sera sarebbero andati a trovarlo per raccontargli com'era stata la giornata, oppure delle figlie che forse avrebbero avuto un paio di bambini. Il vecchio Gramigna raccoglieva tristemente ciò che aveva seminato. Aveva dedicato tutta la vita, tutto l'amore, al giardino, che ora lo tradiva. Beh, era solo colpa sua, inutile piangere sul latte versato. Doveva fare buon viso a cattiva sorte. Con l'avvicinarsi del Natale si sentì ancora più afflitto. Tutti gli altri cottage erano in fermento, si tagliavano gli abeti della barriera di protezione per farne alberi di Natale, si andava a fare acquisti in gruppo, tutti sembravano più gentili. L'unica differenza per il vecchio fu che la donna che veniva a rigovernargli la casa fece in fretta e furia quando doveva e sparì prima che lui potesse dire beu. Neppure 2 minuti per una chiacchieratina, però prima di precipitarsi fuori, la donna gli disse soltanto che i signori Whitford erano alla villa e che avrebbero dato una festa per Natale. Non che la cosa gli interessasse, ma gli riportò alla memoria i vecchi tempi quando la signora Charteris invitava in casa tutto il personale e uno a uno faceva gli auguri e consegnava il regalo che aveva acquistato appositamente a Londra. Oggigiorno non si faceva più così, pensò il vecchio. I buoni sentimenti di un tempo non esistevano quasi più. Un po' le tasse e un po' per il razionamento, la gente non poteva permettersi di essere generosa. Ed era a Natale che si sentiva di più la mancanza di cose del genere. Mentre così meditava, sentì battere un forte colpo sull'uscio e una voce allegra chiedere se ci fosse qualcuno in casa. Senza attendere risposta, il visitatore, un signore di mezza età, dall'aspetto festoso, entrò deciso nel salottino. Si presentò come colonnello Whitford, appoggiò in un angolo il bastone trasformabile in sedile, si sedette e disse: «Allora, siete voi il signor Pinnegar di cui tanto ho sentito parlare?» Poi, come ricordandosene all'improvviso, aggiunse: «Ma ci siamo già incontrati! Non facevate parte della giuria anni fa alla fiera della contea?» «Ricordate molto bene i volti», disse il vecchio. «Non è stato per il volto, ma quella battuta a proposito del male al posteriore che avevamo tutti, perché eravamo stati seduti sulle sedie tutto il tempo. Ed era proprio così, per bacco, ma più ancora ricordo che assegnaste a noi il primo premio per una composizione di verdure e avevate ragione. Non ditemi che l'avete dimenticato. No, lo ricordo benissimo, lo assicurò il signor Pinnegan. Non avevo mai visto delle rape così belle in tutta la mia vita. Dovevate avere un bravo giardiniere a curare l'orto. Proprio così, e quando io non ne ho alcun merito, replicò ridendo il colonnello. Anzi, io ero poco più che un ragazzino, per cui non credo proprio di averci avuto molto a che fare. Però certe cose si ricordano. Passammo una giornata bellissima e voi ci faceste ridere di gusto. Il vecchio Gramigna cominciava a sentirsi un po' a disagio. Ben presto, se già non l'aveva fatto, la gente avrebbe messo il colonnello al corrente della faccenda del cottage. E forse, dopo, non sarebbe stato tanto gioviale. Nascondere le cose non aveva mai dato buoni frutti. Perciò, tanto valeva affrontare subito la questione. Spero, colonnello, che non mi abbiate giudicato scortese per la faccenda del cottage. Sono venuto anche per questo, disse il colonnello Whitford. Al circolo ho incontrato il vecchio Billiter, che mi ha detto alcune cose. Poi ho incontrato il mio agente e anche lui mi ha detto alcune cose. Facendo 2 più 2 temo che siate stato trattato male. Perciò, cosa possiamo fare per sistemare la cosa? Se avete assolutamente bisogno del cottage, azzardò il vecchio Gramigna. Oh, al diavolo il cottage, sbottò il colonnello. Tanto per cominciare, non ci appartiene. E anche se fosse nostro, potreste tenervelo e ve lo concederemo con piacere. Ciò che mi chiedo è come farà un uomo attivo come voi a far passare il tempo. Non potete smettere di lavorare di colpo senza sentirvi un po' perso. Billiter mi ha detto che non avete problemi di denaro, ma cosa fate tutto il santo giorno? Niente, rispose il vecchio. Ecco, è quello che pensavo. E dunque, che ne direste se vi concedessimo la serra in fondo al giardino da usare come meglio credete, senza nessuna interferenza di altri? Fatene quello che volete, coltivate quello che volete. Siamo molto scarsi quanto a mano d'opera e mi sentirei sollevato ad affidare la serra ad altri. E se per caso coltivaste qualcosa di un po' insolito, ricordatevi del vostro vecchio amico che sta alla villa. Mia moglie desidera avere sempre dei fiori in tavola e le piacciono molto le cose dolci. Quindi avete un campo d'azione piuttosto ampio. Cosa ne dite? Se alla signora piacciono le fragole precoci? Caro signore, se mettete un piatto di fragole precoci davanti a mia moglie, gli occhi le schizzeranno fuori dalle orbite come quelli di un gamberone. Però dovete tenere la serra chiusa a chiave, oppure non se ne fa niente. Eccola la chiave, e tante grazie! Era già sulla soglia quando sembrò ricordare qualcosa. Ah, a proposito, disse, ieri in città ho comprato questo. Se può esservi utile, non fate complimenti. Non che ne abbiate bisogno, vecchio mio. E porse al signor Pinnegar il bastone trasformabile in sedile. Un oggetto che uno possiede solo in un sogno. Non vi verrà male al posteriore con quello, disse. Buon Natale! Just closed it slow, didn't raise your voice, you just let it go, you said it all without a line, and baby, I missed the sign. Still kiss me, and but your eyes looked away. You stopped saying we and started talking someday. It was love Comparvero ricci pungenti del castagno e piccoli pennacchi rossi sui cespugli di nocciolo. L'aconito fiorì e sfiorì. I ragazzini del villaggio scivolarono sbadando su quello che rimaneva del vecchio canale. Una giunchiglia gigante e precoce rabbrividiva in un angolo dell'orto. Ma laggiù, nell'ultima serra, il vecchio gramigna stava comodo come un topo nel formaggio. Ogni mattina, con qualunque tempo, usciva dal cottage appoggiandosi al suo bastone sedile. Non faceva più neanche un passo senza di quello. Era una specie di simbolo di quanto era riuscito a fare nella vita, un marchio di qualità, un segno materiale e visibile. Con quel bastone si sentiva sicuro di sé e del suo posto nel mondo. Poteva essere fiero di se stesso e sentire di valere come chiunque altro. Sapere che il suo giardino era in altre mani non lo faceva più soffrire. Lì, nella serra, era lui il padrone. A volte il nuovo capo giardiniere andava a chiedergli un consiglio, fingendo di essere preoccupato per un cespuglio prezioso o incerto sulle condizioni meteorologiche locali che non conosceva. Cosa ne pensava il signor Pinnegar? Era il caso di trapiantare o era meglio aspettare e vedere come evolveva la situazione? In certe mattine gelide, quando il capo giardiniere non era nei pressi, i giovani aiutanti sgusciavano dentro la serra per chiedere a Pinnegar consiglio su svariate cose e per scaldarsi le mani sulla stufa. Il vecchio li mandava a spasso, ma tutto contribuiva a intrattenere dei rapporti amichevoli e a passare il tempo. Perfino il colonnello si fermava a fare due chiacchiere, sorridendo nel constatare come funzionasse bene il suo piano. Nel complesso, tutto considerato, fu il periodo più felice della vita del vecchio gramigna. Ancora lo prendevano bonariamente in giro alle sue spalle, ma solo come si prende in giro la sagoma di una vecchia e gloriosa nave da guerra. E quando, sempre alle sue spalle, lo chiamavano col soprannome, più che alla pianta infestante da cui aveva avuto origine, pensavano a quelle bordure su cui le piante perenni, selvatiche, fioriscono anno dopo anno, per tutta la durata della vita di un individuo. Verso la metà di aprile il vecchio gramigna si presentò alla villa con le fragole precoci che avrebbero fatto schizzare gli occhi fuori dalle orbite della signora Whitford. La signora, debitamente messa sull'avviso dal marito, si dimostrò splendidamente all'altezza della situazione. Il vecchio giardiniere si sentì ripagato 1000 volte di ogni piccola gentilezza che aveva ricevuto. Spiegò ancora una volta come fosse importante aspettare che finisse il freddo più intenso prima di portare le piantine nella serra. Come la vecchia padrona aveva sempre pregustato il piacere delle fragole precoci e come lui le aveva promesso di fargliene avere un po' se il colonnello e la signora lo permettevano. Dopo che fu uscito, il colonnello e la moglie si scambiarono un'occhiata. Erano una coppia felice che pensava simultaneamente le stesse cose gentili. «Quanto dista Torquay?» chiese la signora Whitford. «Circa 150 chilometri», rispose il marito. «Non più di 5 ore di viaggio tra andata e ritorno. Te la senti?» «Altro che, ne sarei contentissima!» «Brava! Partenza alle 10, pranzo e il vecchietto sarà di ritorno per l'ora di cena. Sai, Eileen, a volte ti vengono proprio delle belle idee.» «Ah, no, caro, non me le fai. Se il vecchietto non reggerà il viaggio, la colpa sarà tua. Avviso che preparino qualcosa di caldo da offrirgli per quando torneremo.» Alle 10 del mattino seguente, sistemato fra una montagna di cuscini e di coperte, il signor Pinnegar se ne stava seduto come un signore sul sedile posteriore della Rolls Royce, chiedendosi cosa gli stesse mai capitando. Teneva in grembo un cestino di fragole precoci e di fianco l'amato bastone sedile. La signora Whitford, seduta accanto al marito, reggeva un grande mazzo di violette, fornite dal signor Pinnegar. Si girò verso il passeggero e gli sorrise. «È comodo?» gli chiese. Il vecchio giardiniere, non trovando le parole adatte alla circostanza, emise un sospiro di soddisfazione. «Partiamo, John, e dacci dentro!» La grande auto scivolò silenziosamente lungo il viale, girò sulla strada maestra e si diresse verso ovest. Per i primi 45 chilometri il vecchio Gramigna si sforzò di credere che quella cosa meravigliosa stesse veramente accadendo. E poi rinunciò e si addormentò, appoggiato ai cuscini. Quando si svegliò si erano fermati davanti a un grazioso albergo sul lungomare. Il colonnello stava parlando col portiere dell'albergo, che sembrava li stesse aspettando. «Il signor Pinnegar», disse il colonnello, «è venuto a trovare la signora Charteris. Ho telefonato ieri per avvisare. Passeremo a riprenderlo nel pomeriggio. Prendetevi cura di lui, offritegli un buon pranzo e se dovesse finire prima del nostro arrivo, procurategli un angolino bello caldo da qualche parte. Se c'è un giardino che si possa raggiungere facilmente, permettetegli di dargli un'occhiata. Vi dirà se c'è qualcosa che non va. A più tardi.» Una volta dentro l'albergo, il signor Pinnegar fu affidato a una persona gentile e rassicurante. «Il signor Pinnegar», gli disse, «non rimaneteci male se vi parrà che la signora Charteris non vi riconosca. In verità si ricorda benissimo e parla spesso di voi, ma sapete com'è? Le persone molto vecchie non si può mai sapere cosa diranno o cosa faranno. Non entro con voi, vedere due persone contemporaneamente potrebbe confonderla. Potete lasciare qui il cappello. Non la fate parlare troppo e non vi trattenete a lungo. Verrò a dirvi quando sarà ora di uscire.» Gli aprì lentamente la porta e il signor Pinnegar entrò in una stanza bellissima, con delle grandi finestre, con la vista sul mare. Era inondata dal sole, il profumo delicato che proveniva da un vaso di violette sembrava il sospiro lieve di una mattinata primaverile. La sua vecchia padrona era seduta in una grande poltrona e non era cambiata dal giorno in cui l'aveva salutata nel giardino, prima della partenza. «Buongiorno», disse Charteris, disse la signora Charteris. «Mi è stato detto che desiderate vedermi. Che cosa posso fare per voi?» Il signor Pinnegar tirò fuori il suo dono e lo depose sul tavolino accanto a lei. «Fragole! E così precoci, esclamò la signora. Come fate a produrre delle fragole in questo periodo dell'anno? Sa, noi avevamo delle fragole precoci alla villa, ma soltanto perché Pindigar, il mio capogiardiniere, era un uomo straordinario, davvero straordinario. Cominciò a lavorare per me da ragazzino e non mi ha mai lasciato, nonostante parecchie persone gli offrissero più di quanto io potessi permettermi di pagare. Credo che mi volesse bene a modo suo. Adesso è piuttosto vecchio, ma quando era giovane non c'era nessuno come lui. Il giardino era bello come un quadro. Avete mai visto il mio giardino? Il signor Pinnegar rispose di sì, che l'aveva visto parecchie volte. Ne sono lieta, disse la signora. Mi fa piacere incontrare le persone che lo ricordano. Il giardino non mi apparteneva naturalmente, io ne ero soltanto la proprietaria. Una volta l'ho detto a Pinnegar e il poverino si preoccupò moltissimo. Pensò che fossi irritato con lui per qualcosa, ma non era così. Non si riusciva a rimanere irritati con Pinnegar, era così gentile. Mi faceva sempre delle piccole sorprese, come quei bambini che risparmiano i soldini per comprarti qualcosa per Natale. Il signor Pinnegar, da ascoltatore che sentiva solamente parlare bene di se stesso, diventava sempre più imbarazzato. Gli sembrava di essere uno che spiasse attraverso i vetri di una finestra o che origliasse a una porta. Ma non sapeva che farci, e la signora Charteris fosse e se la signora Charteris fosse venuta a sapere di avergli parlato di lui, mentre lui se ne stava lì bello seduto, senza dire niente, che cosa avrebbe pensato? Forse avrebbe dovuto... A quel punto la porta si aprì e la vecchia signora si girò entusiasta verso il nuovo punto di interesse. «Oh, infermiera!» disse. «Abbiamo parlato tanto piacevolmente del mio signor Pinnegar. Quando arrivò alla villa era un ragazzino molto buffo. Volevano mandarlo a lavorare nei campi e quando dissi che ai giovani bisognerebbe permettere di decidere da soli cosa vogliono fare, il parroco si arrabbiò molto. Mi chiese cosa ne sapevo della campagna, dato che ero lì appena da 2 minuti, e così gli risposi. Se è per questo, reverendo, cosa ne sapete voi del paradiso terrestre? Non ci siete mai stato? Volevate bene a Pinnegar, vero? Le chiese l'infermiera. Oh, non sempre, rispose la vecchia signora. A volte, quando era testardo, l'avrei preso a schiaffi. Povera me, disse l'infermiera sorridendo. Spero che non l'abbiate fatto mai. No, certo, era solo per scherzo. Però era un po' pesante. Un momento vi esasperava, perché voleva fare le cose a modo suo. E il momento successivo era talmente dolce da far venire le lacrime agli occhi. Che tipo strano. Strano? No, niente affatto, disse la signora Charteris. Pinnegar era un giardiniere. Già, un giardiniere. E i giardinieri sono fatti tutti un po' così. But you stayed on the phone, talked about nothing, like you were already gone. I heard the goodbye between every word you used. You never had to say it. You kissed me that morning, but your hands felt cold. You smiled like summer, but your eyes looked old. I tried to believe, but the truth came through. been quiet. She don't play the same. She knows the notes, but they don't call your name. She bends like she's trying to hold on. Just stop showing up. You didn't walk out. You just stopped showing Ed eccoci qua, questa era la fine dell'audiolibro Memorie di un vecchio giardiniere di Reginald Arkell. Spero tantissimo che abbiate apprezzato questa piccola lettura, questa semplice lettura, appunto doveva essere la lettura estiva, perché comunque molto piacevole, molto scorrevole e leggera. Poi si è protratta un po' oltre, quindi è diventata anche autunnale, ma insomma vabbè. E sarei molto curiosa di sapere appunto se vi è piaciuta, cosa ne pensate, se avete dei commenti o qualsiasi altra cosa vogliate dire in merito, e infatti vi chiedo di appunto provare a scriverci, a scrivermi o tramite il pad, e il link è diretto a wombat.vado.li o se no tramite la casella di posta wombat@insiberia.net. ci fa molto piacere se commentate, oppure tramite i commenti in fondo a ogni pagina di ogni episodio, insomma di ogni puntata, dal nostro sito. RadioWombat.net è il nostro sito, ormai lo sapete, quindi appunto fatemi sapere cosa ne avete pensato. E io vi saluto quindi per questo lunedì, ci risentiamo sempre con Nervature lunedì prossimo, che quindi sarà novembre, sarà il 3 novembre, sempre più o meno alle 19, e a tutti e tutte una buona serata. Che dire, Wombat. You said I'm fine, but your hands let go. You start on light so light, but your heart felt gold. I played along, blind and kind, but now I see it's too late to rewind. We danced around what we wouldn't say, hoping time might look the other way. The truth, line by line, and now it's gone, too late to rewind, too late to take back the things we broke, too late for the words we never spoke. We can play that song, it's gone, baby, too late to rewind. in a softer key, but even she.